Dunque, nel foglio 10 c'è proprio il passaggio dalla separazione alla paura, come un passaggio ovvio. La paura è generata dalla piccola mente che è generata dalla separazione e che a sua volta produce separazione. Come reagisce la piccola mente di fronte alla paura? La piccola mente cerca potere e il controllo. E cosa produce il potere, la ricerca di potere e controllo? Ulteriore separazione. E quindi ulteriore dose di paura. Stiamo quindi descrivendo un loop, tanto più, tanto più. È anche un modo elegante di definire cos'è una nevrosi. Qualcosa che si mantiene nella nostra mente di disfunzionale che produce sofferenza innecessaria. Che cosa ci vuole? Al posto per riuscire uscire dalla paura, qual è la vera cura? La vera cura è una cura che viene praticata molto raramente nel nostro universo culturale. La vera cura è riunire ciò che abbiamo separato, cioè riconnetterci con le persone, con gli animali, con le piante, col nostro corpo, col nostro inconscio, con le nostre sensazioni, con le nostre emozioni, con tutto ciò che c'è. Questo non significa non distinguere più, io discerno ancora tra una persona, tra un atto disonesto e un atto di bontà, ma non mi sento più separato dalle persone che praticano l'uno o l'altro, perché l'onestà e la disonestà sono dei processi e come processi sono impersonali, ci accomunano tutti. Come si fa a passare dalla paura, quindi a uscire dalla paura? Cominciando a guardare il mondo dalla grande mente anziché dalla piccola mente, perché la grande mente abbraccia tutto ciò che c'è, abbraccia ciò che inizialmente con la piccola mente ci piace e quello che invece non ci piace, accoglie tutto perché comprende le cose così come sono e comprende che le cose sono così perché hanno una necessità di essere così, sono così perché c'è stato prima qualche altra cosa. Certo. Un padre che sia un disattento, una madre, un padre prepotente o una madre distratta non nascono dal nulla, hanno delle radici molto profonde nel passato che abbiamo bisogno di imparare a rispettare e vedere in profondità. È quello che Gesù disse, una frase famosa di Gesù, scagli la prima pietra a chi è senza peccato, o meglio, o l'altra, tendete a vedere la pagliuzza nell'occhio altrui e non vedete la trave che c'è nel vostro. Cioè, in pratica Gesù parlava di come noi continuiamo a proiettare. E questo poi sarà il tema della parte quando ci dedicheremo all'ombra. Come giungiamo alla fine della paura? Riunendo ciò che è stato diviso. Da cosa è stato diviso? Dai presupposti che stanno dietro al nostro linguaggio comune di tutti i giorni, di cui siamo inconsapevoli. Quindi occorre un altro tipo di pensiero, linguaggio, che si fonda su presupposti non più duali, ma presupposti non duali. Cominciando a praticare questo nuovo linguaggio, che chiamiamo metamodello 2, pian pianino impariamo a introdurre elementi di non dualità e quindi di riunione con tutto ciò che c'è, da cui deriva la fine della paura. Chiamiamo questo yoga delle idee, yoga del pensiero, yoga delle menti, cioè yoga in senso di unione. E questo è anche il senso della vera religione, cioè il senso del sacro è connetterci con tutto ciò che c'è. Nel momento che ci isoliamo e ci separiamo, ci condanniamo da soli a una vita di infelicità. Sappiamo bene quanto le persone, quanto più sono nevrotiche o sofferenti, tendono a isolarsi. Tendono a isolarsi oppure a continuare a lamentarsi anche con gli amici. Il che è un altro modo di isolarsi, non sono isolati fisicamente, magari vivono insieme a tante persone, ma sono isolati nel loro territorio psicologico, che è quello che conta.